Aspettai che la situazione si normalizzasse un po'. 3 giorni dopo il pronunciamento militare, mi diressi con l'automobile del congresso al Ministero della Difesa, stupito che non mi avessero cercato per invitarmi a prendere parte al nuovo governo. Tutti sanno che sono stato il principale nemico dei marxisti, il primo a opporsi alla dittatura comunista e a osar dire in pubblico che solo i militari potevano impedire che il paese cadesse nelle grinfie della sinistra. Inoltre sono stato io ad allacciare quasi tutti i contatti con l'alto comando militare, a fungere da gancio con i gringos e a impegnare il mio nome e il mio denaro nell'acquisto delle armi. In una parola mi ero esposto più di tutti. Alla mia età il potere politico non mi interessa affatto, ma sono uno dei pochi che avrebbe potuto consigliarli perché da molto tempo occupo certe posizioni e so meglio di tutti cosa conviene a questo paese. Senza consiglieri leali, onesti e capaci che possono fare pochi colonnelli improvvisati, solo corbellerie, o lasciarsi ingannare dai furbastri che approfittano delle circostanze per arricchirsi, come di fatto sta succedendo. In quel momento nessuno sapeva che le cose sarebbero andate come sono andate. Pensavamo che l'intervento militare fosse un passo necessario per la svolta verso la democrazia sana, sicché mi sembrava tanto importante collaborare con le autorità. Quando arrivai al Ministero della Difesa, mi sorprese vedere l'edificio trasformato in un immondezzaio. I soldati di ordinanza lavavano i pavimenti con stracci. Vidi qualche parete sbrecciata dai proiettili e dappertutto i militari correvano chini come se fossero davvero in mezzo a un campo di battaglia o si aspettassero che i nemici piombassero giù dal tetto. Dovetti aspettare quasi 3 ore perché mi ricevesse un ufficiale. Dapprima credetti che in quel caos non mi avessero riconosciuto e perciò mi trattavano con così poca deferenza, ma poi mi resi conto di come stavano le cose. L'ufficiale mi ricevette con gli stivali sulla scrivania, masticando un panino unto, sbarbato male con la giubba sbottonata. Non mi diede tempo di chiedere di mio figlio Jaime, né di congratularmi per la coraggiosa azione dei soldati che avevano salvato la patria, bensì cominciò col chiedermi le chiavi dell'automobile, con la scusa che il congresso era stato chiuso e quindi erano finite anche le prebende dei congressisti. Ebbi un sussulto. Era evidente allora che non avevano alcuna intenzione di riaprire le porte del congresso, come tutti speravamo. Mi chiese, no, mi ordinò di presentarmi il giorno dopo nella cattedrale alle 11 del mattino per assistere al Te Deum con cui la patria avrebbe ringraziato Dio per la vittoria sul comunismo. È vero che il presidente si è suicidato? Chiesi. Se n'è andato, mi rispose. Se n'è andato? Dove? Se n'è andato in sangue. Rise l'altro. Uscii in strada, sconcertato, appoggiato al braccio del mio autista. Non avevamo modo di rincasare perché non circolavano né taxi né autobus e io non ho l'età per camminare. Fortunatamente passò una jeep di carabinieri e mi riconobbero. Era facile individuarmi, come dice mia nipote Alba, perché ho un aspetto inconfondibile da vecchio corvo arrabbiato e vado sempre in giro vestito a lutto col mio bastone d'argento. Salga, senatore! Disse un tenente. Ci aiutarono ad arrampicarci sul veicolo. I carabinieri avevano l'aria stanca e mi sembrò evidente che non avevano dormito. Mi confermarono che da 3 giorni stavano pattugliando la città tenendosi svegli con caffè forte e pastiglie. Avete trovato resistenza nei quartieri o nei cordoni industriali? Chiesi. Ben poca. La gente è tranquilla, disse il tenente. Spero che la situazione si normalizzi presto, senatore. Non sono cose che ci piacciono, è un lavoro sporco. Non dica così, accidenti. Se voi non li aveste vinti sul tempo, i comunisti avrebbero fatto il golpe e a quest'ora lei, io e altre 50.000 persone saremmo morti. Lo sapeva che avevano un piano per imporre la dittatura. Boh, così ci hanno detto, ma nel quartiere dove abito io ci sono molti prigionieri. I miei vicini mi guardano con sospetto. Qui ai ragazzi succede la stessa cosa, ma bisogna eseguire gli ordini. La patria è la prima cosa, vero? Appunto. Anch'io soffro per quello che sta succedendo, tenente, ma non c'era altra soluzione. Il regime era marcio. Cosa ne sarebbe stato di questo paese se voi non aveste impugnato le armi? In fondo, tuttavia, non ero così certo. Avevo il presentimento che le cose non andavano come avevamo pianificato. E che la situazione stava sfuggendoci di mano, ma in quel momento misi a tacere le mie inquietudini col ragionamento che, 3 giorni sono molto pochi per mettere ordine in un paese e che probabilmente il grossolano ufficiale che mi aveva ricevuto al Ministero della Difesa rappresentava una minoranza insignificante delle forze armate. La maggioranza era come quel tenente scrupoloso che mi aveva riportato a casa. Supposi che di lì a poco l'ordine si sarebbe ristabilito e che, allentandosi la tensione dei primi giorni, mi sarei messo in contatto con qualche personaggio importante della gerarchia militare. Mi pentii di non essermi rivolto al generale Hurtado. Non l'avevo fatto per rispetto e anche, lo ammetto, per orgoglio, perché era più corretto che lui cercasse me e non io lui. Venni a conoscenza della morte di mio figlio Jaime solo 2 settimane dopo, quando c'era passata l'euforia del trionfo, vedendo tutti che stavano contando i morti e gli scomparsi. Una domenica si presentò a casa un soldato, guardingo, e riferì a Blanca in cucina quanto aveva visto al Ministero della Difesa e quanto sapeva dei corpi fatti esplodere con la dinamite. Il dottor Del Valle aveva salvato la vita a mia madre, disse il soldato guardando a terra con l'elmetto in mano. Per questo sono venuto a dirvi come l'hanno ammazzato. Blanca mi chiamò perché ascoltassi quello che diceva il soldato, ma mi rifiutai di crederci. Dissi che l'uomo si era confuso, che non era Jaime, ma un'altra persona quella che aveva visto nella sala delle caldaie, perché Jaime non aveva niente a che vedere col palazzo presidenziale il giorno del pronunciamento militare. Ero sicuro che mio figlio fosse scappato all'estero attraverso qualche valico della frontiera o che avesse trovato asilo presso qualche ambasciata, ammesso che stessero perseguitandolo. Del resto il suo nome non compariva in alcuna lista di gente ricercata dalle autorità, sicché dedussi che Jaime non aveva nulla da temere. Doveva passare molto tempo, diversi mesi, perché io comprendessi che il soldato aveva detto la verità. Nel delirio della solitudine aspettavo mio figlio, seduto nella poltrona della biblioteca, con gli occhi sulla soglia della sala, chiamandolo col pensiero proprio come chiamavo Clara. Lo chiamavo tanto che finalmente riuscii a vederlo, ma mi apparve coperto di sangue secco e di stracci, strascinando una scia di filo spinato sul pavimento incerato. E così seppi che era morto, proprio come ce l'aveva raccontato il soldato. Solo allora cominciai a parlare della tirannia. Mia nipote Alba, invece, aveva visto profilarsi il dittatore molto prima di me. Lo vide emergere tra i generali e la gente di guerra. Lo riconobbe perfettamente perché lei aveva ereditato l'intuizione di Clara. È un uomo duro, di aspetto semplice, di poche parole, come un contadino. Sembrava modesto e pochi erano riusciti a indovinare che un bel giorno l'avrebbero visto avvolto in un mantello da imperatore, con le braccia in alto a zittire le folle stipate sui camion per acclamarlo, con quegli augusti baffi tremanti di vanità. All'inaugurazione del monumento alle quattro spade, dalla cui cima una torcia eterna avrebbe illuminato i destini della patria, ma dove, per un errore dei tecnici stranieri, non si levò mai alcuna fiamma, bensì un denso fumo da cucina che galleggiò nell'aria come una perenne tormenta di altri climi. Cominciai a pensare che mi ero sbagliato nel procedimento e che forse non era quella la migliore soluzione per abbattere il marxismo. Mi sentivo sempre più solo perché ormai nessuno aveva bisogno di me, non avevo i miei figli e Clara, con la sua mania del mutismo e della distrazione, sembrava un fantasma. Persino Alba si allontanava sempre più. In casa la vedevo appena, mi passava accanto come una raffica con le sue orrende gonne lunghe di cotone stropicciato e i suoi incredibili capelli verdi come quelli di Rosa, occupata in faccende misteriose che portava a termine con la complicità di sua nonna. Sono sicuro che loro due tramavano cose segrete alle mie spalle. Mia nipote andava in giro turbata come Clara ai tempi del tifo, quando si era caricata sulle spalle il fardello del dolore altrui. Alba ebbe ben poco tempo per piangere la morte di suo zio Jaime, perché le urgenze di chi aveva bisogno l'assorbirono subito, sicché dovette immagazzinare il suo dolore per smaltirlo più tardi. Non rivide Miguel sino a 2 mesi dopo il golpe militare ed era arrivata a pensare che anche lui fosse morto. Tuttavia, non lo cercò, perché in questo senso aveva istruzioni ben precise da parte sua. E inoltre aveva sentito che era ricercato nelle liste di quelli che dovevano presentarsi davanti alle autorità. Questo le aveva dato speranza. Finché lo cercano, è vivo, dedusse. Si tormentava all'idea che potessero prenderlo vivo e invocava sua nonna per chiederle che la cosa non accadesse. Preferisco mille volte vederlo morto, nonna, supplicava. Lei sapeva quello che stava succedendo nel paese, per questo aveva notte e giorno lo stomaco oppresso, le tremavano le mani e quando veniva a sapere della sorte di qualche prigioniero si riempiva di orticaria da capo a piedi come un appestato. Ma non poteva parlarne con nessuno, tanto meno con suo nonno, perché la gente preferiva non sapere niente. Dopo quel martedì terribile, il mondo cambiò in modo brutale per Alba. Dovette addormentare i propri sensi per continuare a vivere. Fu costretta ad adattarsi all'idea che non avrebbe mai più rivisto chi più aveva amato, suo zio Jaime, Miguel e molti altri. Incolpava suo nonno di quanto era successo, ma poi, vedendolo rattrappito nella sua poltrona, che invocava Clara e suo figlio in un mormorio interminabile, le tornava tutto l'amore per il vecchio e correva ad abbracciarlo e passargli le dita sulla bianca chioma e a consolarlo. Alba sentiva che le cose erano di vetro, fragili come sospiri, e che le mitraglie e le bombe di quel martedì indimenticabile avevano annientato buona parte di coloro che conosceva. Il resto era ridotto in frantumi e schizzato di sangue. Col passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, pure quello che dapprima sembrava essersi preservato dalla distruzione cominciò a mostrare segni di deterioramento. Notò che gli amici e i parenti la evitavano, che qualcuno attraversava la strada per non salutarla o voltava la faccia quando si avvicinava. Pensò che fosse corsa la voce che aiutava i perseguitati. Era così. Fin dai primi giorni l'urgenza maggiore era stata quella di dare asilo a chi si trovava in pericolo di morte. Dapprima ad Alba era sembrato un'occupazione quasi divertente, che permetteva di occupare la mente con altre cose e non pensare a Miguel, ma si era subito resa conto che non era un gioco. I bandi avvertirono i cittadini che dovevano denunciare i marxisti e consegnare i fuggiaschi, altrimenti sarebbero stati considerati traditori della patria e giudicati come tali. Alba recuperò miracolosamente l'automobile di Jaime, che era scampata al bombardamento ed era rimasta una settimana parcheggiata nella stessa piazza dove lui l'aveva lasciata, finché Alba non l'aveva saputo ed era andata a prenderla. Le dipinse due grandi girasoli sulle portiere di un giallo intenso perché si distinguesse dalle altre macchine e facilitasse così il suo nuovo compito. Dovette imparare a memoria l'indirizzo di tutte le ambasciate, i turni dei carabinieri che le vigilavano, l'altezza dei muri, la larghezza delle porte. L'avviso che c'era qualcuno da nascondere le arrivava di sorpresa, spesso attraverso uno sconosciuto che l'abordava per strada o che supponeva fosse stato inviato da Miguel. Si recava al luogo dell'appuntamento in piena luce del giorno e quando vedeva qualcuno che faceva segni, avvisato dai fiori gialli dipinti sulla sua automobile, si fermava brevemente affinché salisse in fretta e furia. Per strada non parlavano perché lei preferiva non sapere nemmeno il suo nome. Talvolta doveva passare tutto il giorno con lui, compreso il fatto di nasconderlo per una o due notti, prima di trovare il momento propizio per introdurlo in un'ambasciata raggiungibile, scavalcando un muro alle spalle delle guardie. Questo sistema si rivelava più spedito delle pratiche con i timorosi ambasciatori delle democrazie straniere. Non veniva a sapere mai più nulla del rifugiato, ma conservava per sempre la sua gratitudine tremante. Quando tutto finiva, respirava sollevata perché per quella volta si era salvato. In certi casi dovette farlo con donne che non volevano separarsi dai propri figli. Nonostante Alba promettesse di farle poi raggiungere dalla creatura attraverso la porta principale, visto che nemmeno il più timoroso ambasciatore si sarebbe rifiutato di accettarlo. Le madri non volevano lasciarseli indietro, sicché alla fine bisognava far passare anche i bambini sopra i muri o calarli dalle inferriate. Poco dopo, tutte le ambasciate erano circondate da filo spinato e mitragliatrici, e divenne impossibile continuare a prenderle d'assalto, ma altri bisogni la tennero occupata. Fu Amanda a metterla in contatto con i preti. Le due amiche si incontravano per parlare fra sussurri di Miguel che nessuno aveva più rivisto. e per ricordare Jaime con una nostalgia senza lacrime, perché non c'era la prova ufficiale della sua morte. Il desiderio che entrambe avevano di rivederlo era più forte del racconto del soldato. Amanda aveva ripreso a fumare freneticamente, le tremavano molto le mani e il suo sguardo si smarriva. Talvolta aveva le pupille dilatate e si muoveva con torpore, ma continuava a lavorare in ospedale. Le raccontò che soccorreva di continuo gente che le portavano in deliquio per la fame. Le famiglie dei prigionieri, degli scomparsi e dei morti non hanno niente da mangiare, i disoccupati neppure, appena un piatto di minestra ogni 2 giorni. I bambini si addormentano a scuola, sono denutriti. Aggiunse che il bicchiere di latte e i biscotti che prima tutti gli scolari ricevevano ogni giorno erano stati soppressi e che le madri placavano la fame dei figli con un po' di tè. Gli unici che fanno qualcosa per aiutare sono i preti, spiegò Amanda. La gente non vuole sapere la verità. La Chiesa ha organizzato refettori per dare tutti i giorni un piatto di cibo 6 volte alla settimana ai minori di 7 anni. Non basta, certo. Per ogni bambino che mangia una volta al giorno un piatto di lenticchie o di patate, ce ne sono 5 che rimangono fuori a guardare, visto che non ce n'è a sufficienza per tutti. Alba capì che erano retrocessi a tempi antichi, quando sua nonna Clara andava al quartiere della Misericordia a sostituire la giustizia con la carità. Solo che adesso la carità era mal vista. Constatò che quando andava in casa dei suoi amici a chiedere un pacchetto di riso o un barattolo di latte in polvere, la prima volta non osavano rifiutarglielo, ma poi le dicevano di no. Dapprima Blanca l'aiutò. Alba non ebbe difficoltà a ottenere la chiave della dispensa di sua madre, spiegando che non aveva bisogno di accaparrare farina comune e fagioli da poveri se si potevano mangiare granchi del Mar Baltico e cioccolato svizzero, sicché riuscì a rifornire i refettori dei preti per un periodo di tempo che comunque le parve molto breve. Un giorno portò sua madre in uno di quei refettori. Alla vista del lungo tavolaccio di legno non lucidato, dove una doppia fila di bambini con occhi supplichevoli aspettava la sua razione, Blanca si mise a piangere e rimase a letto per 2 giorni col mal di testa. Avrebbe continuato a lamentarsi se sua figlia non l'avesse costretta a vestirsi, a dimenticarsi di se stessa e a cercare soccorsi a costo di rubare al nonno dal bilancio familiare. Il senatore Trueba non volle sentir parlare della cosa, così come faceva la gente della sua classe, e negò la fame con la stessa tenacia con cui negava i prigionieri e i torturati, sicché Alba non poté contare su di lui. E in seguito, quando non poté contare nemmeno più su sua madre, dovette ricorrere a metodi più drastici. Il luogo più lontano cui arrivava il nonno era il club. Non girava per il centro e ancor meno si avvicinava alla periferia della città o ai quartieri più marginali. Non fece alcuna fatica a credere che le miserie che raccontava sua nipote erano frottole dei marxisti. Preti, comunisti! Esclamò. Era l'ultima cosa che dovevo ancora sentire. Ma quando cominciarono ad arrivare a tutte le ore i bambini e le donne che chiedevano l'elemosina davanti alle porte delle case, non diede l'ordine di chiudere le inferriate e le persiane per non vederli come fecero gli altri, bensì aumentò il mensile a Blanca e disse che tenessero sempre un po' di cibo caldo da dare a quei poveracci. È una situazione passeggera, assicurò. Non appena i militari avranno riordinato il caos in cui il marxismo ha lasciato il paese, questo problema sarà risolto. I giornali dicevano che i mendicanti per strada, che non si erano più visti da molti anni, erano inviati dal comunismo internazionale per togliere prestigio alla giunta militare e sabotare l'ordine e il progresso. Misero staccionate per chiudere i quartieri periferici, nascondendoli agli occhi dei turisti di chi e di chi non voleva vedere. In una notte sorsero per incanto giardini rasati e cespugli di fiori nei viali piantati dai disoccupati per creare la fantasia di una pacifica primavera. Diedero il bianco per cancellare i murales con le colombe libertarie e togliere per sempre dalla vista i manifesti politici. Qualsiasi tentativo di scrivere messaggi politici sulla pubblica via era punito con una raffica di mitra sul posto. Le strade pulite, ordinate, silenziose, si aprirono al commercio. Poco dopo scomparvero i bambini mendicanti e Alba notò che non c'erano neppure cani randagi né bidoni di immondizia. Il mercato nero finì, Nello stesso istante in cui bombardarono il palazzo presidenziale, perché gli speculatori erano stati minacciati di legge marziale e fucilazione. Nei negozi si cominciarono a vedere cose che non si conoscevano nemmeno di nome e altre che prima trovavano solo i ricchi mediante il contrabbando. La città non era mai stata più bella. Mai l'alta borghesia era stata più felice. Poteva comprare whisky senza restrizioni. Automobili a credito. Nell'euforia patriottica dei primi giorni, le donne regalavano i loro gioielli nelle caserme per la ricostruzione nazionale, anche le loro fedi matrimoniali che venivano sostituite da anelli di rame con l'emblema della patria. Blanca dovette nascondere il calzerotto di lana con i gioielli che Clara le aveva lasciato perché il senatore Trueba non li consegnasse alle autorità. Videro nascere una nuova e superba classe sociale. Nobili signore vestite con abiti di altri luoghi, esotiche, splendenti come lucciole, nella notte si pavoneggiavano nei posti di ritrovo al braccio dei nuovi e superbi padroni dell'economia. Sorse una casta di militari che occupò rapidamente i punti chiave. Le famiglie, che prima avevano considerato una disgrazia avere un militare tra i loro membri, si contendevano le raccomandazioni per sistemare i figli nelle accademie di guerra e offrivano le loro figlie ai soldati. Il paese si riempì di gente in uniforme, di macchine belliche, di bandiere, di inni e di sfilate, perché i militari sapevano che la popolazione aveva bisogno dei suoi simboli e dei suoi riti. Il senatore Trueba, che per principio detestava queste cose, comprese quello che avevano voluto dire i suoi amici del club quando assicuravano che il marxismo non aveva la minima possibilità in America Latina perché non contemplava il lato magico delle cose. Pane, circo e qualcosa da venerare, tutto ciò di cui hanno bisogno. Concluse il senatore, deplorando comunque nel suo intimo che mancasse il pane. Si orchestrò una campagna destinata a cancellare dalla faccia della terra il buon nome dell'ex presidente nella speranza che il popolo la smettesse di piangerlo. Aprirono la sua casa, invitarono il pubblico a visitare quello che chiamavano il palazzo del dittatore. Si poteva guardare dentro i suoi armadi e meravigliarsi del numero e della qualità delle sue giacche di camoscio, controllare i suoi cassetti, frugare nella dispensa per vedere il rum cubano e il sacco di zucchero imboscato. Circolavano fotografie rozzamente truccate che lo mostravano vestito da bacco, con una ghirlanda di grappoli d'uva sulla testa, ruzzando con matrone opulente e con atleti del suo stesso sesso, in un'orgia perpetua che nessuno, neppure lo stesso senatore Trueba, credette fossero autentiche. «Questo è troppo! Stanno superando i limiti!» biascicò quando venne a saperlo. Con un colpo di spugna i militari cambiarono la storia universale, cancellando gli episodi, le ideologie e i personaggi che il regime disapprovava. Risistemarono le carte geografiche perché non c'era alcun motivo di mettere il nord sopra, così lontano dalla benemerita patria, se si poteva metterlo in basso, dove ne traeva maggiori benefici, e di passaggio dipinsero con blu di Prussia vasti limiti di acque territoriali sino ai confini dell'Asia e dell'Africa. E si impadronirono dei libri di geografia di terre lontane, spostando le frontiere con assoluta impunità. Finché i paesi fratelli persero la pazienza, lanciarono un grido alle Nazioni Unite e minacciarono di mandare contro di loro i carri armati e gli aerei da caccia. La censura, che dapprima aveva controllato solo i mezzi di comunicazione, si estese in fretta ai testi scolastici, alle parole delle canzoni, ai soggetti dei film e alle conversazioni private. C'erano parole proibite per bando militare, come la parola compagno o compagna e altre che non si dicevano per precauzione, anche se nessun bando le aveva eliminate dal dizionario, come libertà, giustizia, sindacato. Il paese si riempì di simpatizzanti del regime militare. Alba non si spiegava l'atteggiamento delle forze armate, che per la maggior parte provenivano dalla classe media e dalla classe operaia e che storicamente erano state più vicine alla sinistra che alla destra. Non capì lo stato di guerra interna, né si rese conto che la guerra è l'opera d'arte dei militari, il culmine della loro preparazione, il distintivo dorato della loro professione. Non sono fatti per brillare durante la pace. Il golpe aveva dato loro l'opportunità di mettere in pratica quanto avevano imparato nelle caserme, l'obbedienza cieca, il maneggio delle armi e altre arti che i soldati possono dominare quando mettono a tacere gli scrupoli del cuore. Alba abbandonò gli studi perché la facoltà di filosofia, come molte altre che aprono le porte al pensiero, venne chiusa. E neppure andò più avanti con la musica, perché il violoncello le sembrava una frivolezza in quelle circostanze. Molti professori furono mandati via, arrestati o sparirono in accordo a una lista nera, opera della polizia politica. Sebastian Gomez lo ammazzarono alla prima ondata, denunciato dai suoi stessi alunni. L'università si riempì di spie. L'alta borghesia e la destra economica che avevano reso possibile il sollevamento erano euforiche. All'inizio si spaventarono un po', vedendo le conseguenze della loro azione, perché non era mai accaduto che vivessero in una dittatura e quindi non la conoscevano. Pensarono che la perdita della democrazia sarebbe stata transitoria e che si poteva vivere per un certo tempo senza libertà imprenditoriale, e neppure importò loro la perdita di prestigio internazionale che li aveva collocati nella stessa categoria di altre tirannie regionali, perché l'avevano considerato un prezzo conveniente per la sconfitta del marxismo. Quando arrivarono capitali stranieri per fare investimenti bancari nel paese, lo attribuirono naturalmente alla stabilità del nuovo regime, sorvolando sul fatto che per ogni peso che entrava se ne portavano via due di interessi. Quando di lì a poco cominciarono a chiudersi quasi tutte le industrie nazionali e i commercianti cominciarono a fallire, battuti dall'importazione massiccia di beni di consumo, dissero che le cucine brasiliane, le stoffe di Taiwan e le motociclette giapponesi erano molto migliori di qualunque cosa fosse mai stata fabbricata nel paese. Solo quando restituirono le concessioni delle miniere alle compagnie nordamericane, dopo 3 anni di nazionalizzazione, qualche voce suggerì che era come regalare la patria avvolta in un foglio di cellophane. Ma quando cominciarono a restituire agli antichi padroni le terre che la riforma agraria aveva distribuito, si tranquillizzarono. Erano tornati bei tempi, videro che solo una dittatura poteva agire col peso della forza e senza rendere conto a nessuno per garantire i loro privilegi, sicché smisero di parlare di politica e accettarono l'idea che avrebbero avuto il potere economico, ma che i militari avrebbero governato. L'unica loro fatica fu quella di associare i militari all'elaborazione dei nuovi decreti e delle nuove leggi. In pochi giorni eliminarono i sindacati, i dirigenti operai erano prigionieri o morti, i partiti politici dichiarati in cessazione indefinita e tutte le organizzazioni di lavoratori e di studenti e perfino le scuole professionali smantellate. Era proibito raggrupparsi. L'unico posto dove la gente poteva riunirsi era la chiesa, di modo che in poco tempo la religione divenne di moda e i preti e le monache dovettero rinviare i loro travagli spirituali per soccorrere i bisogni terreni di quel gregge smarrito. Il governo e gli imprenditori cominciarono a vederli come nemici potenziali e qualcuno risolse il problema col revolver, assassinando il cardinale, dato che il papa da Roma si era rifiutato di toglierlo dal suo posto e mandarlo in un ricovero per frati alienati.